Capito? È un pollice e mezzo quello che c'è, cioè un certamente è un casino. Faccio troppo più tardi, vado la domenica a essermi di piazza, domani mattina così stasera faccio, me li prendo quelli a fare. Cambio.